L'Evangelo per radio. Dio si cura di te. Cari amici ed amiche, chi legge la Bibbia trova in essa spesse volte delle promesse veramente preziose. Vorrei così farvi partecipi di una promessa che si trova nella lettera di Pietro che ho fatto mia e che spesso mi accompagna nella vita. Questa: getta su di lui ogni tua sollecitudine perché egli ha cura di te. La vita è piena di problemi. Essi ci seguono dalla mattina fino alla sera. Problemi sul posto di lavoro, problemi in famiglia, problemi di salute e così via. Il Signore non ci ha promesso una vita senza problemi, ma ci ha promesso che Egli avrebbe avuto cura di noi, di me e di te. Questa è una sua promessa, e per chi crede nel Signore, questa promessa è oggi più che mai preziosa. L'uomo è un essere che cade facilmente nella sollecitudine. Si è solleciti nel mangiare, nel vestire, si è ansiosi per il futuro. Ecco perché il Signor Gesù, nel Sermone sul Monte, fra i tanti argomenti che tocca, tocca anche quello del mangiare e del vestire. Infatti, egli dice: «Non siate con ansietà solleciti per la vita vostra, di quello che mangerete o di quello che berrete, né per il vostro corpo di che vestirete». E poi ci esorta a guardare, a considerare gli uccelli che non seminano e non mietono, eppure sono nutriti da Dio. Esorta pure a guardare i fiori dei campi così belli, che Dio fa crescere magnifici, stupendi, eppure vivono solo per poco tempo. Ebbene, in questo suo discorso il Signore Gesù dirà anche: poiché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, cioè il mangiare e il vestire. Il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Quindi, il Signore sa che noi abbiamo bisogno di mangiare e di vestirci, e appunto perché lo sa, ci esorta a non essere ansiosi, a non essere preoccupati di questo, perché se Egli ha cura di noi e si interessa a noi, ci darà quello che ci necessita veramente. Inoltre, Gesù afferma che sono i pagani che ricercano tutte queste cose. I pagani, sì, forse tu che ascolti pensi di essere un cristiano, oppure ti dichiari cristiano, ma se tu ricerchi queste cose prima del regno di Dio, ebbene tu sei un pagano. Sì, i pagani non sono solo quelli che vivono là, nell'Africa o nell'Asia, che non conoscono niente di cristianesimo, ma sono coloro che apparentemente sembrano cristiani, ma vivono poi una vita senza Dio. Sono coloro, secondo Gesù, che ricercano prima le cose terrene e poi, quando hanno tempo, si interessano delle cose di Dio. No, il Signore non vuole questo. Egli ci esorta a cercare prima il suo regno, e cercare prima il suo regno vuol dire dare la precedenza a Lui. La precedenza quando ti alzi al mattino, mettendo in preghiera davanti a Dio ogni attimo della giornata. La precedenza a tavola, quando inizi il tuo pasto quotidiano, ringraziando Dio che ti ha procurato tutte queste benedizioni per sua grazia. E così alla sera, prima di addormentarti, ringraziare colui che ti ha concesso una giornata vissuta nella serenità e nella pace. E se casomai hai trascorso una giornata di sofferenza, ebbene hai motivo di ringraziare lo stesso il Signore, perché ti ha sostenuto e perché tramite questa sofferenza egli ti ha insegnato qualcosa. E solo quando avrai dato la precedenza al Signore, cioè cercato prima il suo regno e la sua giustizia, allora realizzerai che tutte queste cose, cioè il mangiare, il vestire, ti sarà un sovrappiù, cioè non saranno lo scopo della tua vita. Quanto danno ti puoi procurare se inverti i principi che Dio ha stabilito? Anche nella parabola del seminatore, che è conosciuta penso da tutti, viene messo in risalto l'effetto deleterio che produce l'eccessivo attaccamento alle cose di questa vita. Il seme caduto fra le spine rappresenta coloro che hanno udito la parola di Dio, ma restano soffocati dalle cure, dalle ricchezze, dai piaceri della vita. Quindi questo seme, cioè la parola di Dio, che viene a posarsi sul cuore dell'uomo, non può portare frutto perché le cure di questa vita, anche se lecite e doverose, soffocano la crescita spirituale, impedendo di arrivare a maturazione. Anche tu, ora che odi l'Evangelo, fai parte di uno di questi tipi di terreno. Il tuo cuore è simile a quello pieno di spine? Sei troppo occupato delle cose di questa vita? Sappi che se non dai la precedenza al Signore, se non trovi tempo per Lui, se il tuo cuore non è teso continuamente verso le cose di Dio, ebbene ricordati che la cura delle cose di questa vita soffocherà la parola che tu ora stai udendo, impedendo che essa produca in te una crescita e un risveglio spirituale. Il Signore ha promesso che Egli ha cura di te, e dicendo questo in pratica vuole dire non avere una cura eccessiva delle cose di questa vita, non essere ansioso del tuo mangiare e del tuo vestire. Rilassati, perché già io mi interesso a questo. Quindi tu non devi fare altro che esercitare questa fede, interessarti delle mie cose, delle cose eterne che hanno ben più valore. Se tu non hai fede che io ho cura di te, dice ancora il Signore, per le cose di questa vita che tu vedi e tocchi, non faticherai a credere che mi interesso maggiormente delle cose eterne e spirituali. Riceverai così benedizioni in questa vita e nell'altra la vita eterna.